Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E nuovamente in studio dopo la linea GR di Radio Popolare, mercoledì 13 marzo, l'appuntamento a teatro con Teatro Fanin. Sono arrivate diverse risposte. Primo con risposta esatta, seppur semplice ma molto reattivo, è Loris, che ringrazio ovviamente per aver giocato col Breakfast Club. Andrei a teatro accompagnato per la serata di venerdì 15 marzo alle ore 21. Quindi aggiungo anche diversi che hanno scritto, che ringrazio ovviamente, e aggiungo, vedo se aggiungere dei biglietti, sapete che non riesco a tacere davanti all'abbraccio delle mattiniere, dei mattinieri sui 103.1, e cercherò di strappare altri ingressi. Sarete informati ovviamente in tempo breve. Ringrazio quindi Enrico, che ne approfitta di un semaforo di cantiere lungo la strada per scrivere e mandare un saluto, un caloroso abbraccio a te Enrico, grazie. Saluto anche Gaetano, saluto Paola, grazie, come vi ho detto restate sintonizzati. Quindi se arriva una telefonata non è un libero mercato o altre amenità, magari è William Piano di Radio Città Fujiko che ne approfitta, vi disturba un attimo però per una buona notizia, per portarvi a teatro. Allora, vediamo quello che succede già intanto al Teatro Testoni Ragazzi, Festival Internazionale di Arti Performative e Cultura per la Prima Infanzia, perché è già successo, anche se ovviamente avremo uno svolgimento fino al 19 marzo. Dal 12 al 19 marzo, Visioni di Futuro, Visioni di Teatro, ed è un Festival Internazionale di Arti Performative e Cultura per la Prima Infanzia, un evento unico che offre al pubblico una vasta selezione della produzione nazionale e internazionale di spettacoli e performance per la fascia d'età 0-6 anni, con sorprese il ritorno della compagnia La Baracca al Testoni Ragazzi. Anche la curatela ovviamente della rassegna. Sì, dicevo, quando mi sono congedati in precedenza magari non sono stato chiarissimo, volevo dire dell'intensità di questa rassegna. Praticamente gli appuntamenti sono costanti dal 12 al 19 marzo, quindi già iniziato, però ne do volentieri notizia perché già da questa sera è la volta della danza con la compagnia spagnola Date Danza, che porta in scena Tu, Io, Tu e Io, una collaborazione della diversità attraverso la danza, uno spettacolo che lavora sui limiti con cui convivono le persone, trasformandoli invece in una potenza creativa. Beh, ogni giorno abbiamo qualcosa, magari nel nostro Last Minute ne facciamo citazione per quanto riguarda questa rassegna così intensa dal 12 al 19 marzo. Linee generali invece, grazie alla nostra redattrice Alberta Laviola, le abbiamo intercettate alla presentazione. Intanto, conoscendo Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti, che prendono il testimone per quanto riguarda la direzione artistica del Teatro Testoni Ragazzi, sentiamo appunto la conversazione tenuta da Alberta con la direzione artistica del teatro. Siamo qui con Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti, che sono i nuovi direttori artistici di questo festival. Inizio a chiedervi un po' di descrivermi questo festival, parlatecene un po'. Allora, a livello di eventi, sarà un festival che dura 8 giorni, dal 12 al 19 marzo, e avrà oltre 40 spettacoli, dovrebbero essere 47, delle iniziative speciali, Andar per Nidi, 03 Chiama Italia, Artist Meet Early Years, una conferenza il sabato mattina, 8 laboratori, uno al giorno, quindi veramente tantissimi incontri giorno per giorno. Vi chiedo ancora di descriverci un po', magari delle parole chiave, di dirci delle parole chiave per introdurci questo festival, per farci venire un po' la curiosità, insomma. Allora, è un festival che è importantissimo per noi, che lavora su tre parole chiave. La prima è quella dell'incontro. Noi vogliamo che questo sia un luogo di incontro, ma veramente dove le persone, dove tutti gli operatori, le famiglie, le scuole, veramente abbiano un luogo dove poter raccontare, raccontarsi, ascoltare e ascoltarsi. Per noi questo è fondamentale. La seconda parola è quella del pieno del vuoto, diciamo sempre io, Bruno, per noi è importante veramente che questi bambine, queste bambine, questi bambini, queste famiglie entrano, operatori entrano in uno spazio tra virgolette vuoto, dove poterlo riempire coi propri pensieri, con la propria curiosità, con la propria arte tra virgolette. Un'altra parola chiave fondamentale è l'apertura. Vogliamo che questo sia un teatro con porte e finestre aperte per guardare il mondo, e soprattutto vogliamo che il mondo a un certo punto arrivi anche all'interno di questo teatro per raccontarsi anche lui. Grazie mille, vi chiedo ancora un'ultima cosa, è un'edizione particolare perché si ritorna a casa, quindi chiedo a entrambi come vi sentite. Beh, allora, tornare a casa sicuramente è un'esperienza bellissima, proprio perché abbiamo ancora negli occhi l'edizione di ottobre, sono passati solo 5 mesi, è stata bellissima anche quella, ma era in giro per le strade di Bologna e per i luoghi di Bologna, i luoghi culturali, bellissima, complicatissima da organizzare. Tornare a casa vuol dire riappropriarsi del luogo in cui il festival è nato, noi siamo cresciuti, tantissimi bambini e bambine hanno continuato in un qualche modo e hanno iniziato il loro percorso teatrale, e quindi per noi ha un valore simbolico elevatissimo. Per me tornare a casa vuol dire ritrovarsi un po' nei propri spazi, trovare un po' i colori, gli odori, i rumori anche, e farne tesoro. Come ha detto anche Bruno in conferenza stampa, questo luogo è pieno di radici e nelle radici scorre il nutrimento madre. Allora è importante prendere questo nutrimento madre e nel luogo, nella tua casa, costruirci all'interno, continuare a nutrirlo, e che all'interno si formino alberi, piante, foglie, giardini, muri, torri. Vogliamo che questo luogo cresca dentro e fuori da queste mura. Importante, una realtà fondamentale, l'attenzione per i teatri e il teatro nazionale e internazionale, con dei contenuti e dall'intensità dal 12 al 19 marzo, con appuntamenti quotidiani, oltre che un appuntamento anche con laboratori, con spazi indicati per la formazione, per la diffusione, per l'inclusione. Quindi questo graditissimo ritorno della barca Testoni, ragazzi, è qualcosa che, oltre un valore aggiunto, beh, oltre che le mie parole, come ben sapete, seguiamo questo palcoscenico e chiaramente anche da parte delle istituzioni sono immancabili questi elogi per quanto riguarda l'aspetto fondamentale di Teatro Testoni, ragazzi. Sentiamo quindi Elena Di Gioia. Siamo qui con Elena Di Gioia per festeggiare questa splendida riapertura e le chiedo appunto quanto è importante per la città di Bologna. Il Teatro Tessoni, ragazzi, è una delle realtà più consolidate nel nostro non solo territorio della città di Bologna ma anche nella scena artistica nazionale e internazionale per quello che riguarda il teatro per l'infanzia e per l'adolescenza, ed è stata una delle esperienze che quasi 50 anni fa anche in maniera pionieristica ha segnato appunto un'attenzione importante su questo campo. Oggi la riapertura del Teatro Tessoni dopo 2 anni di lavori ce lo riconsegna come un teatro più bello, con l'accessibilità che è un elemento importante che mancava e che siamo andati a completare, così come l'efficientamento energetico di questo spazio e anche una nuova modalità anche di fruizione degli spazi di accoglienza del pubblico. E sappiamo che quando diciamo la parola pubblico in questo teatro intendiamo anche quella responsabilità alta di rivolgerci a bambine e bambini dai 0 ai 6 anni e anche fino agli anni della prima adolescenza, quindi per molti anche il primo approccio proprio con i linguaggi del teatro, della danza, e quindi anche quella responsabilità appunto di accendere scintille e luoghi d'incontro. Quindi gli spazi riqualificati lo sono anche per esempio nel foyer, nei primi locali anche di accesso, in maniera molto più fluida, molto più accogliente e anche rispetto appunto alla dinamica con il pubblico. Per noi questo è uno dei luoghi cari appunto al teatro della città, l'infanzia e l'adolescenza, e si collega anche a dei progetti teatrali e di danza che fuoriescono dall'edificio di via Matteotti, entrano nei nidi, quindi entrano anche nei nostri servizi educativi ed entrano appunto con la complicità e il lavoro e l'importanza di tanti artisti e artiste che si cimentano, alcuni anche per la prima volta, su progetti e opere pensate appunto per bimbi e bimbe che hanno dai 0 ai 3 anni, così come il festival che da martedì 12 marzo prende il via, un festival ormai storico, internazionale, Visioni di futuro, Visioni di teatro, che porta il meglio delle compagnie della scena internazionale qui a Bologna, insieme anche a tanti operatori, operatrici, a quella comunità che lavora intorno all'infanzia e che per noi è importante tenere alimentata. Come vi ho detto, condivido le parole di Elena Di Gioia, anzi con il Breakfast Club, dall'esistenza del format dedicato al teatro, in questo caso in un last minute, che dà un'ulteriore amplificazione a questo festival che ritorna con una nuova direzione artistica al Festival Internazionale di Arti Formative e Cultura per la Prima Infanzia, Visioni di Futuro e Visioni di Teatro. Quindi io ringrazio sia Alberta La Viola per la redazione dei 103.1, i due direttori artistici del Teatro Tessoni Ragazzi con il ritorno della baracca, Andrea Buzzetti e Bruno Frabetti, e le parole di Elena Di Gioia. Tra pochissimo il voltiamo pagina sui 103.1. ricordo l'appuntamento di oggi alla biblioteca dell'Archiginnasio in Piazza Galvani 1, ci sarà il nostro Alfredo Pasquali, ci sarà il signor Zuppi, ci sarà anche Vauro, per quanto riguarda, ne abbiamo già parlato, Sati e religione. Allora, pubblicità, si ritorna, voltiamo pagina sui 103.1, la rubrica letteraria, libri a colazione per voi.